Storie italiane. Il talismano. C'era una volta un principe e una principessa che si erano sposati da poco. Erano follemente innamorati l'uno dell'altro. Erano veramente felici. Il principe si chiamava Robert e la principessa Emilia. Robert ed Emilia volevano mantenere la loro felicità e desideravano profondamente possedere un talismano con il quale proteggersi da ogni infelicità nel loro matrimonio. Un giorno il consigliere del re parlò di un uomo che viveva nella foresta, acclamato da tutti per la sua saggezza e noto per i suoi buoni consigli per ogni necessità e difficoltà. Dovremmo partire subito e incontrare questo saggio. Così, il giorno dopo, Robert ed Emilia si misero in viaggio per andare dall'uomo saggio. Quando raggiunsero l'albero in cui viveva il saggio, gli raccontarono del loro desiderio. L'uomo saggio ascoltò e poi disse: «Viaggiate attraverso ogni paese del mondo e ovunque incontrerete una coppia felicemente sposata, chiedete loro un piccolo pezzo di tessuto da loro indossato. Una volta preso, indossateli e poi portatemeli. Li mescolerò con del loro liquido e ne farò due anelli d'oro. Anelli d'oro saranno i vostri talismani. Questo è l'unico modo». Robert ed Emilia ringraziarono l'uomo saggio e partirono. Attraversarono giungle e fiumi e presto si imbatterono in una città dove chiesero a un uomo che passava quali fossero gli sposi più felici. «Beh, il nostro cavaliere e sua moglie sono la coppia di sposi più felice. Dovremmo andare subito a trovare il cavaliere». Così andarono al castello del cavaliere. Il cavaliere li accolse. Robert ed Emilia chiesero al cavaliere e a sua moglie se il loro matrimonio fosse veramente felice come dicevano. «Sì, certo, siamo davvero molto felici insieme». Emilia e Robert ne furono felici. «Ma con un'eccezione». «Cos'è?» «Non abbiamo figli. Ogni giorno desideriamo avere un figlio. Questo renderebbe il nostro matrimonio davvero felice». La felicità di Emilia e Robert svanì presto, perché questo non era ciò che il saggio aveva richiesto per creare i talismani. Sconsolati, ringraziarono il cavaliere e sua moglie e continuarono il loro viaggio alla ricerca della coppia felicemente sposata. Mentre viaggiavano, arrivarono in un paese dove sentirono parlare di un onesto cittadino che viveva in una perfetta armonia e felicità con sua moglie. Quindi andarono da lui e gli chiesero se fosse davvero felicemente sposato. «Oh, sì, lo sono. Io e mia moglie viviamo in perfetta armonia. Se solo nostro figlio non fosse così malato e debole, saremmo davvero così felici. Abbiamo provato i migliori medici del paese, ma nessuno può curarlo». Delusi ancora una volta, Robert ed Emilia si guardarono l'un l'altro. «Siamo molto dispiaciuti di sapere di tuo figlio e speriamo che presto guarisca. La nostra ricerca deve continuare». Ringraziarono l'uomo onesto e sua moglie e continuarono il loro viaggio. Andarono avanti e avanti ancora, attraverso il paese, sempre chiedendo di coppie felici e sposate, ma non trovarono nessuno. «Non preoccuparti, amore mio, sono sicuro che troveremo presto il talismano». «Ah, lo spero, amore mio, altrimenti i lunghi viaggi e tutti i problemi che stiamo affrontando saranno invano». Robert annuì e sorrise per consolare la sua preoccupata moglie, ma nel profondo anche lui era preoccupato. Un giorno, mentre cavalcavano lungo campi e prati, notarono un pastore vicino alla strada, che suonava allegramente il suo flauto. Proprio in quel momento, una donna che portava un bambino in braccio e ne teneva uno per mano, si diresse verso di lui. Non appena il pastore la vide, la salutò e prese il bambino, che baciò e accarezzò. Il cane del pastore corse verso il ragazzo e abbaiò e saltò di gioia. La donna aveva preparato il pranzo che aveva portato con sé. L'uomo si sedette e prese un boccone. Robert ed Emilio osservarono tutto, si avvicinarono e parlarono con loro. «Dovete essere una coppia davvero felicemente sposata!» «Sì, lo siamo!» «Quanto felici! Nessun principe o principessa potrebbe essere più felice di noi. Non siamo solo felici, siamo anche soddisfatti. Robert ed Emilia si guardarono l'un l'altro con un sorriso, poiché pensavano di aver finalmente trovato ciò che serviva per il talismano. È un piacere incontrare te e la tua famiglia, signore. Lo stesso vale per noi, signore. Vi piacerebbe sedere con noi e mangiare? Non è molto, ma è pur sempre cibo. Emilia guardò Robert e annuì. Non solo sei felice, sei anche gentile tu. E sì, ci piacerebbe mangiare un boccone. Robert ed Emilia si sedettero e mangiarono con loro. Chiacchierarono per un po' e non appena il cibo finì, Robert pensò di chiedere al contadino il pezzo di stoffa. Il cibo era delizioso. Emilia ed io non possiamo ringraziarvi abbastanza, ma vogliamo chiedervi un altro favore. Ma prima permettimi di assicurarti che se ci aiuterai non te ne pentirai. Certo, che cosa? Dacci un piccolo pezzo di lino del vestito che indossi e ti ricompenseremo profumatamente. Un pezzo di lino? Sì, vedete, abbiamo viaggiato per giorni per trovare la coppia veramente felicemente sposata e in voi l'abbiamo trovata. Se ci date un pezzo di stoffa del vostro vestito, allora lo porteremo al saggio nella foresta ed esso forgerà i talismani che assicureranno che io e Robert vivremo felici insieme, per sempre, proprio come voi. Il pastore e sua moglie si guardarono in modo strano l'un l'altro, cosa che fece incuriosire Robert ed Emilia. Che cosa c'è? Saremo molto felici di darvi non solo un piccolo pezzo di lino, ma le vesti intere se le avessimo, ma non le abbiamo. Vedete, noi non abbiamo molto, ma amiamo ciò che abbiamo. Il cuore di Robert ed Emilia si riempì, ma comunque donarono al pastore alcune monete d'oro prima di andarsene. Sei un bravo uomo. Prenditi cura di te e della tua famiglia. Il pastore e sua moglie ringraziarono Robert ed Emilia. Mentre si sedevano sui loro cavalli, Robert guardò Emilia preoccupato. Amore mio, ho paura che per la ricerca del talismano stiamo perdendo gli anni della nostra giovinezza. Hai ragione, amore mio. Torniamo al nostro regno. Non desidero alcun talismano. E così Robert ed Emilia decisero di tornare a casa. Mentre attraversarono la foresta, dove viveva l'uomo saggio, decisero di fermarsi e raccontare la loro esperienza di viaggio. E gli chiesero per quale motivo non gli avesse dato più consigli. Ah, guarda chi è tornato, Robert ed Emilia. Suppongo che abbiate trovato il pezzo di lino. No, non l'abbiamo trovato. È stata un'idea orribile andare a cercarlo in primo luogo. Oh, davvero? Sì. Come hai potuto farci questo? Abbiamo viaggiato per diverse città e paesi per incontrare molte persone. Non abbiamo trovato nessuno adatto per l'impossibile pezzo di lino. Sono d'accordo con mio marito. Questa è stata una completa perdita di tempo. Dopo averli ascoltati, l'uomo saggio sorrise. Il vostro viaggio è stato davvero del tutto inutile? Non siete tornati più ricchi di conoscenza? A questa domanda, Robert ed Emilia rimasero sbalorditi. Si guardarono l'un l'altro e si chiesero cosa intendesse. Cosa intendi? Chiedetelo a voi stessi. Non avete imparato proprio nulla dal viaggio? Beh, sì. Ho imparato che la consapevolezza di essere soddisfatti è un dono raro al mondo. E io ho imparato che per essere contenti non serve nient'altro che essere contenti. Sia Robert che Emilia si resero conto di ciò che l'uomo saggio aveva cercato di fare per tutto il tempo. Era una lezione. Robert prese la mano di Emilia. I due si guardarono l'un l'altro con un'espressione d'amore profondo. L'uomo saggio li benedisse. Nei vostri propri cuori avete trovato il vero talismano. Custoditelo attentamente e lo spirito malvagio del malcontento non potrà mai in tutta l'eternità avere alcun potere su di voi. Robert ed Emilia ringraziarono l'uomo saggio e tornarono al loro regno. Ogni giorno che passava si amavano ancora di più e insieme custodirono il talismano che avevano trovato nei loro cuori e vissero felici e contenti. Ma aspettate, non è la fine! Il cavaliere e sua moglie ebbero finalmente una bambina. Il figlio dell'uomo onesto si riprese e non si ammalò mai più. E per quanto riguarda il pastore, beh, altri non era che il saggio travestito per dare una lezione a Robert ed Emilia.